Buonasera cari radioascoltatori, benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sera sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Ciao Alessandra. Buonasera Annalisa, dunque come sempre in studio al giovedì sera, buonasera anche al nostro regista. Buonasera a tutti. Allora, Roberto Giava. Come sempre. Allora Annalisa, una nuova puntata di Giro di Boa. Questa sera parliamo di viaggi e avventura con Anna Maspero, coordinatrice di viaggi per avventure nel mondo in Italia. Ciao Anna, benvenuta, grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi davvero per avermi invitato. Anna, coordinatrice di viaggi, ma anche scrittrice. Anna è qui per presentare un libro che ha scritto, A come avventura. E qui con noi questa sera anche Marco Carnovale, coordinatore di viaggi, anche lui per avventure nel mondo e soprattutto coordinatore dell'angolo di avventure a Bruxelles. Ciao Marco. Ciao, grazie. Un amico di Giro di Boa, potremmo dire. Sono onorato di questo titolo. Beh, diciamo, prima di partire vorrei chiedere ai nostri ospiti di parlarci un attimo di avventure nel mondo, della loro esperienza con avventure nel mondo e dell'angolo di avventure a Bruxelles per tutti i nostri radioascoltatori bruxellesi. Sì, grazie ancora per averci qua. L'angolo dell'avventura è il primo all'estero ed è un circolo di viaggiatori. Detto in parole molto semplici, non è un'agenzia di viaggi, non abbiamo alcun fine di lucro, ci occupiamo soltanto di mettere assieme persone che amano viaggiare un po' fuori dai circuiti organizzati, senza magari volersi dare delle arie di grandi esploratori, che noi ovviamente non siamo, ma gente che ama viaggiare un po' fuori dai pacchetti precotti e invece andare a cercare di capire anche le realtà dei paesi che si visitano, pur sempre nei limiti di un viaggio che è limitato nel tempo, evidentemente. E questo lo facciamo ovviamente organizzando viaggi, ma anche qui a Bruxelles organizzando serate dove ci incontriamo, ci scambiamo esperienze, vediamo fotografie, filmati di viaggi già fatti e soprattutto ne programmiamo per l'avvenire. Marco, chi ti volesse contattare può farlo? Assolutamente sì, anzi gli interessati sono benvenuti, c'è un sito che è un po' lungo ma non è difficile ed è www.angolodellavventura.com/estero/Bruxelles, quindi angolodellavventura.com/estero/Bruxelles. Lì ci sono i nostri indirizzi di email con anche le coordinate del locale dove ci incontriamo a Bruxelles, che è per l'appunto Le Cercle des Voyageurs, che non è nostro ma che ci ospita e che è stato creato qualche anno fa proprio con questa stessa finalità che ci contraddistingue, cioè mettere assieme gente che ama capire i paesi che visita. E sta vicino al Manneken Pis, è facilissimo da trovare. Puoi fare qualche esempio per i nostri radioascoltatori di serate che avete organizzato recentemente, quali diapositive avete mostrato, di quali viaggi avete parlato? Sì, abbiamo fatto vedere diversi viaggi in India, che è un paese che io amo particolarmente, ho fatto quindi vedere delle mie diapositive dell'India centrale, come anche della Dak, dello Zanskar, festival buddhisti. Poi abbiamo anche ospitato persone che non sono parte di avventure nel mondo, ma che vengono a far vedere appunto per esempio i loro libri, di fotografie. C'è una fotografa belga che si chiama Isabelle Wetz, che ha fatto vedere dei bellissimi libri di fotografie sulla Dak e sullo Yemen. Abbiamo ospitato una ragazza italiana che ha lavorato in Bosnia nella cooperazione, ha fatto vedere più che un viaggio una permanenza lavorativa di 2 anni in Bosnia, che peraltro è una nuova destinazione, diciamo, dell'Europa emergente, che finora è stata un po' trascurata per ovvi motivi, guerra. Abbiamo fatto vedere anche dei viaggi di un po' particolari di amici che tu conosci, che stavano con noi in un viaggio a cui tu hai partecipato, con slitte trainate dai cani in Canada, che è una cosa interessantissima. Io non ne sapevo nulla prima, invece attraverso questa serata ho avuto l'opportunità con voi tutti di scoprire questo tipo di viaggio un po' specifico che si fa nelle nevi del Quebec. Ecco, quindi ci sono, ognuno magari possono piacere dimensioni diverse del viaggio, più natura, più cultura, però il minimo comune denominatore per noi è quello di cercare appunto di medesimarsi nei limiti del possibile nelle realtà locali. Quindi colgo l'occasione per dire che chi ha magari qualcosa da proporre, o un filmato, delle belle diapositive, un libro, e vorrebbe condividere magari con noi questi suoi prodotti, è benvenuto a farsi avanti e lo mettiamo in calendario. Dunque, per tutte le informazioni, rivolgersi al sito, dove immagino ci sarà anche un'email. Sì, che è Marco Avventure, molto facile, tutto attaccato, marcoavventure@skynet.be. marcoavventure@skynet.be. Siete benvenuti a farvi avanti e proporre fotografie, libri, filmati, musica. Marco, posso intervenire? Oggi su Repubblica.it leggevo di una notizia: le grandi aziende, per formare meglio i loro manager, li mandano al Polo Nord. Fanno spedizioni, organizzano tutto, ovviamente organizzato. Non so se magari si associeranno anche delle slitte a dei viaggi slitte, ma mi sembra in linea anche con un trend abbastanza in voga di questi tempi. Sì, non sapevo di questa, però ci sono delle iniziative che servono a formare soprattutto uno spirito di gruppo tra colleghi, manager e dipendenti di aziende, per facilitare ovviamente poi il lavoro insieme, e per far questo si inventano le cose più disparate e anche divertenti, come corsi di cucina, viaggi che vanno al di là della formula classica dei viaggi incentive, che erano un po' dei premi che si davano magari per produttività o altro ai dipendenti, ma questi invece servono proprio a formare uno spirito di gruppo. Devo dire, Anna sicuramente lo confermerà, che il tipo di viaggio che facciamo noi porta molto a facilitare lo spirito, porta a facilitare lo spirito di gruppo, perché ci si incontra il primo giorno del viaggio con 10-12 persone che uno non ha mai visto prima e con le quali passerai 24 ore su 24 per le prossime 2 o 3 settimane. Quindi questo inevitabilmente ti porta a imparare a convivere. A volte riesce bene, a volte c'è qualche difficoltà in più. Lo lasciano lì, lasciano con gli orsi bianchi. Sì, io direi che è quasi un viaggio nel viaggio quello all'interno del gruppo, e in effetti quindi ci si relaziona, è vero, alla gente del posto, che è la cosa fondamentale, sicuramente gli incontri con i locali, quello lo scopo principale per cui noi viaggiamo. Però contemporaneamente è anche molto bella questa avventura che si vive all'interno del gruppo, e io devo dire che la maggior parte dei miei amici poi sono amici proprio incontrati in viaggio, ma anche nel gruppo. E proprio ricollegandomi al discorso delle serate che anche noi organizziamo in Italia, chiaramente in Italia, essendo il tour operator italiano e avendo alle spalle un associazionismo molto forte, praticamente in ogni paese, in ogni città c'è un angolo dell'avventura, ecco, organizziamo tantissime di queste serate in cui abbiamo modo di incontrare viaggiatori un po' di tutti i generi, ed è un arricchimento anche quando uno, costretto dal lavoro, costretto da impegni familiari eccetera, non può chiaramente permettersi di essere sempre in viaggio, ecco, un modo di viaggiare anche durante l'anno, diciamo, di lavoro. Anna, tu in quale città coordini l'angolo di avventure? A Cantù, in Brianza, provincia di Como, ed è un angolo piccolo di provincia che però devo dire fra quelli che hanno maggiore risposta da parte del pubblico, perché abbiamo creato un bel gruppo di viaggiatori con cui collaboriamo proprio divertendoci, che è la cosa più importante. Un tema già di cui avevamo parlato con Marco in puntate precedenti, si diceva che con i viaggi di avventure nel mondo non soltanto consentono di conoscere meglio, provare a conoscere meglio un paese straniero, una cultura straniera, ma consentono anche di conoscere meglio l'Italia. Sì, a me è capitato, devo dire, essendo romano ed avendo vissuto molti anni all'estero, io da quando ho cominciato a viaggiare con avventure ho cominciato a conoscere gente di tutte le parti d'Italia, anche se c'è una prevalenza del centro-nord, che altrimenti non avrei mai conosciuto e che sicuramente non avevo mai conosciuto prima. Quindi in realtà di paesi di provincia, di grandi città, di tutte le professioni ed estrazioni possibili ed immaginabili. E anche di tutte le età, in realtà. E di tutte le età. Ci sono persone, esatto, in coppia, persone single, ci sono anche viaggi con i figli, bambini piccoli, bambini più grandi, per cui quelli in genere sono viaggi un po' particolari, in cui si sa che si viaggia con i ragazzi, perché i tempi chiaramente devono essere un po' diversi, soprattutto se ci sono dei bambini. Però veramente mette in contatto persone molto molto diverse, anche questo è un arricchimento importante. Devo dire che, contrariamente alle mie aspettative, i più difficili spesso sono proprio i più giovani, da cui uno magari si aspetterebbe più flessibilità, adattabilità, e invece quelli cosiddetti più anziani, diciamo dai 50 in poi, sono quelli che si alzano prima la mattina, camminano di più, si stancano di meno, sono più adattabili, flessibili. Questa è stata una lezione anche. Sì, anche perché non vogliono essere di peso, si sentono magari un po' più anziani e fanno di tutto per non sembrarlo, ecco, per non esserlo. Anna, con te questa sera vogliamo anche parlare del libro, di un libro che tu hai scritto, come accennavo nell'introduzione, ha come avventura un libro strutturato intorno all'alfabeto, 21 lettere dell'alfabeto per altrettanti racconti e riflessioni legati al viaggio. Qui davanti a me l'indice, posso vedere per esempio che abbiamo la B come bagaglio, Lost and Found, da Djibouti al Messico. Abbiamo S come Slow Travel, Mekong, l'Oriente a Passo Duomo, Laos. T come turista, P come piacere, O come oriente. Anna, come è nato questo progetto? Ecco, partiamo proprio dalla struttura del libro, perché in effetti forse potrebbe travisare un attimo quello che è il senso di questa scrittura. Uno potrebbe pensare a un abbecedario del viaggio, potrebbe pensare a qualcosa di pratico, proprio B come bagaglio, C come cibo, quindi come fare la valigia, come, che cosa mangiare per evitare di avere tutte quelle piccole conseguenze magari che si può avere negative, che possono, quelle cose che possono succedere in viaggio con il cibo. Ecco, invece assolutamente non vuole essere questo e non lo è. Vuole essere invece proprio un libro non tanto sul come viaggiare dal punto di vista pratico, ma sul senso del viaggio, sul perché viaggiare, sull'arricchimento che il viaggio ci può dare. C'è una frase di Alain de Botton che introduce il libro, una citazione, e una citazione a cui tengo molto. Dice, si parla molto del dove andare e poco invece si riflette sul perché viaggiare, e invece il viaggio potrebbe essere uno strumento proprio per aiutarci ad essere anche persone più felici, persone più complete. Ecco, quindi il viaggio come strumento di crescita, come parlavamo un attimo fa, come momento in cui ci si relaziona agli altri. Posto che spesso però questi argomenti sono un po' degli argomenti per addetti ai lavori, per antropologi, per etnologi, ci sono dei testi anche molto belli che io ho letto e di cui alla fine del libro metto una bibliografia abbastanza completa per chi volesse approfondire l'argomento. Ecco, sono argomenti che possono essere però un po' ostici forse per il normale diciamo turista viaggiatore, che cerca sicuramente di ritornare dal viaggio con qualcosa in valigia, dal punto di vista non solo dei souvenir chiaramente, però non ha magari tutto questo tempo di approfondire queste tematiche. Ecco, allora io ho cercato di fare un libro non per addetti ai lavori, ma semplicemente per appassionati di viaggio. Quindi quello che è la mia esperienza di vita, perché il viaggio per me è veramente iniziato da ragazza, col classico Interrail, e Bruxelles è stata proprio una delle prime tappe in cui a 20 anni, a 18 anni mi muovevo con il biglietto dell'Interrail, è stata forse proprio la prima destinazione da cui poi si è aperta le porte del mondo più vasto. Ecco, direi proprio questa, ho cercato proprio di sottolineare il senso, il perché si viaggia, il che cosa io mi sono riportata in valigia da tutti questi miei viaggi. Per non essere troppo teorica, ho cercato di unire, di muovermi su due binari diversi, mi sono mossa su due binari diversi. Ad ogni lettera, come giustamente dicevi, parlavi sia di una riflessione, A come avventura, B come bagaglio, sia di alcuni luoghi, quindi il Mekong piuttosto che Etiopia, cioè c'è un po' tutto il mondo, si passa veramente dall'Asia all'Africa al Sud America, che poi è uno dei, diciamo, dei luoghi per me del cuore, dell'anima, e quindi diciamo è un misto fra riflessione e racconto di viaggio, in cui però il racconto non è finalizzato al dire dove sono stata, che cosa ho visto, ma è finalizzato a illuminare, a dare concretezza a quello che è la riflessione su questi argomenti, tutti abbastanza brevi, quindi molto leggibili. Uno può aprire il libro sostanzialmente quasi a caso, oppure scegliendo la lettera che più gli aggrada in quel momento, e approfondire attraverso la riflessione, oppure semplicemente leggere il racconto e quindi, ecco, vivere dei momenti legati a quella riflessione. Come giustamente dicevi tu, dunque, un libro che è senz'altro anche un libro da viaggio, perché in effetti si dice libro sul viaggio, di viaggio e da viaggio. Ma com'è nato questo gioco di preposizioni? Questo gioco di preposizioni e quest'idea di avere comunque un abbecedario. Ok, allora l'idea è nata un po' per caso, la vita è sempre fatta un po' di coincidenze, diciamo che io partecipando a alcune trasmissioni televisive di una TV locale piuttosto che scrivendo degli articoli, raccoglievo man mano idee, materiale e pensieri su una serie di argomenti attinenti al viaggio. Per dare ordine ho iniziato a usare un indice automatico del computer e quindi mi sono ritrovata A e tutta una serie di parole legate all'argomento viaggio che iniziavano con la A, B, C, eccetera e così via. E alla fine quindi è nato quasi da solo, chiaramente non volendo trasformarlo in un dizionario, in un'opera omnia, ma cercando di dargli anche delle dimensioni di portabilità proprio di un libro da viaggio che uno può portarsi in viaggio e aprire magari nelle pause, nei momenti di attesa che spesso sono parte talvolta anche molto importante di un viaggio. Ecco, allora ho scelto una lettera, una parola per ogni lettera, una parola significativa. Alla fine, completando l'alfabeto, credo di avere dato una visione abbastanza completa di quello che sono tutta una serie di tematiche attinenti al viaggio. Io leggevo, ho letto il capitolo, dal capitolo di Come donna, tu dici che il viaggio è oggi un'esperienza declinata sempre più al femminile, una prova capace di regalare alle donne maggiore sicurezza e maggiore fiducia in loro stesse. Come è cambiato il ruolo della donna anche nel viaggio, da quando tu hai iniziato a viaggiare all'inizio fino a... Sì, devo dire che forse i cambiamenti diciamo, sono un po' più lontani, dobbiamo risalire un po' nel tempo. Adesso il viaggio è molto femminile, se ne accorge anche Marco sicuramente accompagnando i suoi gruppi, dove percentualmente sono sempre di più le donne, e qui credo sia un po' una questione caratteriale. E anche le serate che organizziamo qui a Bruxelles all'angolo, almeno 7 su 10. Fatevi sotto, insomma, l'invito sì, è quello. Sono più pigri, stanno a casa a guardare la televisione. Ecco, invece le donne sono più curiose, più forse un po' più attive, si muovono anche da sole. Dunque significa che gli uomini sono meno avventurieri delle donne? No, anche gli uomini amano l'avventura, certe volte forse più l'avventura, il fuoristrada. Ecco, se io ho un viaggio con i fuoristrada, tendenzialmente l'uomo è ancora quello che tende a guidare e magari a non fidarsi della guida di una donna, quindi dei luoghi comuni più o meno radicati ci sono ancora, ecco, in questo senso. Però sicuramente percentualmente oggi viaggiano molte donne, molte più del passato. Questo cambiamento però direi che risale decisamente al secolo scorso. È storicamente, parliamo sempre di Occidente, perché per il resto del mondo bisogna dire che non si può neanche parlare di viaggio, parliamo di emigrazione, parliamo di tutta una serie di realtà molto più complesse e che esulano da quello che è l'argomento del libro, anche se degli accenni chiaramente di mondo si parla, e quindi ovviamente parlo anche di queste differenze e di questo grande privilegio di libertà e di conoscenza di cui noi occidentali godiamo. Ecco, nel passato viaggiavano solo gli uomini, potevano essere per motivi per le guerre, potevano essere i conquistadores, potevano essere gli esploratori per mappare il mondo. La donna raramente aveva questa possibilità. Perché? Perché un po' la custode, come dire, delle tradizioni, se vogliamo, anche nelle popolazioni nomadi. Spesso sono i tuareg che si muovono, le carovane del sale, eccetera, e le loro donne aspettano. Ecco, quindi storicamente la figura della donna è sempre stata proprio quella che garantiva la continuità e che permetteva all'uomo di andare e di tornare. Poi nel secolo scorso qualcosa è cambiato, le donne hanno già dall'800, 700, 800, le donne hanno cominciato a trovare questa, a dare... come dire, a darsi questa possibilità, questa chance in più, a dare sfogo a questa necessità, e hanno capito che in realtà è una dimensione, può benissimo essere una dimensione anche femminile, addirittura devo dire che in qualche caso, addirittura anche in paesi islamici, può essere più facile per una donna viaggiare che per un uomo. In che senso? Nel senso che ad esempio ha accesso più facilmente al mondo femminile, che è negato ai viaggiatori uomini, per cui a me è capitato spesso di poter approfondire di più la conoscenza della realtà femminile di molti paesi islamici. Sono appena reduce dall'Oman, ad esempio, sono appena stata in Oman e ho verificato ulteriormente questo fatto, pur essendo un paese sostanzialmente moderno, con poi tutta una serie di per noi contraddizioni, come possono essere donne velate più o meno completamente. Ecco, e poi mi dicevi il fatto di che cosa regala il viaggio alla donna. Ecco, secondo me ti aiuta ad affrontare la vita, ad affrontare le difficoltà, le scelte, perché in un viaggio tu necessariamente, soprattutto se viaggi da sola oppure accompagni un gruppo, ti trovi a dover fare delle scelte, avere delle responsabilità. Ecco, io credo che oggi sono molto più serena a affrontare proprio, e poi conosci il mondo, apprezzi anche molto di più quello, però qui non è più un discorso solo femminile, ecco, sto un attimo ampliando a quello che il viaggio ti regala. Anna, dicevi prima che il Sud America occupa, che il Sud America occupa un posto particolare nel tuo cuore, c'è un paese in particolare? In Sud America che ti ha colpito, a cui ti senti particolarmente legato? Immagino un paese dove hai viaggiato più volte. Ecco, il Sud America lo conosco abbastanza nella sua completezza. La mia famiglia ha un po' origini peruviane, perché mio nonno è emigrato in Perù giovanissimo, mio padre è nato in Perù, e quindi c'è un po' questo, diciamo, attaccamento al Sud America che mi viene un po' dalla storia della mia famiglia, anche se poi sono rientrata in Italia, eccetera. E io ho studiato all'università spagnolo, in particolare letteratura sudamericana, ispanoamericana, quindi questa passione la nutro per il Sud America da tempo. E poi ho avuto l'occasione di scoprire un paese veramente un po' fuori dalle rotte più conosciute, che è la Bolivia, e tanto mi sono appassionata che alla fine sempre le coincidenze mi hanno fatto incontrare una casa editrice che aveva bisogno di qualcuno che scrivesse una guida sulla Bolivia, e da qui è nato il mio primo libro, che è appunto una guida per la casa editrice Polaris, una guida sulla Bolivia di tipo non tanto, non solo direi pratico, ma soprattutto una guida d'autore, in cui si approfondiscono tutta una serie di aspetti naturalistici, etnologici, storici del paese, e non solo puramente dove andare a dormire o ecco i ristoranti da scegliere, che alla fine possono essere molto utili chiaramente, però magari un po' noioso, diventa più compilatorio un lavoro del genere, ecco, più che di ricerca delle tradizioni, della storia del paese e di contatto con le persone. E per cui sulla Bolivia io seguo anche un sito internet che è www.bolivia.sudamerica.it per un'associazione Onlus che si chiama Magie delle Ande. I diritti d'autore del libro vanno a questa associazione per un progetto per ragazzi disabili in un villaggio, il villaggio di Huaro, ecco, e quindi c'è questo mio continuo contatto, diciamo, con la realtà del paese, un paese difficile, conflittuale, ma di grande bellezza e di grande interesse, molto anche il paese più indigeno di tutto Sud America e il Centro America. Ci fermiamo per una pausa musicale? Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa. Questa sera parliamo di viaggi e avventura con Anna Maspero e con Marco Carnovale, che sono entrambi coordinatori di viaggi per avventure nel mondo. E con Anna stiamo parlando del libro che ha scritto, Ha come avventura. Anna, vorrei tornare su un punto che tu hai sottolineato in una parte del tuo libro, penso nel capitolo T come turista, se non sbaglio, quando tu dici che il turismo può contribuire all'apertura e alla tolleranza reciproca in questi tempi di violenza e di intransigenza, c'è qualche occasione in particolare in cui hai sentito di aver sperimentato questo aspetto, diciamo, del turismo? Sì, allora, prima di tutto, va bene, il nostro atteggiamento qui con le stesse persone che poi noi altrove, quando andiamo in Africa, andiamo a cercare, eccetera, cambia radicalmente. Se noi riuscissimo a trasferire certi atteggiamenti che abbiamo quando siamo altrove, anche nella nostra realtà quotidiana, che vuol dire solo un atteggiamento di maggior rispetto o di maggiore curiosità per l'altro, per il diverso, perché spesso sembra assurdo dirlo, ma il diverso c'è molto più vicino di quello, e quando andiamo altrove certe volte invece ritroviamo cose simili, ecco, per cui anche questo sarebbe un argomento che potremmo approfondire. Quindi un cambio di atteggiamento che il viaggio e turismo li utilizzo in maniera abbastanza simile, nel senso che parlo sempre di un turismo di tipo rispettoso, sostenibile, responsabile, intelligente. Oggi ci si aggiungono tanti aggettivi, ognuno con una diciamo leggermente diverso, con un significato leggermente diverso, comunque di base c'è un rispetto come aspetto, direi, fondamentale quando ci muoviamo. Ecco, spesso si parla male del turismo, si dice che il turismo fa danno perché chiaramente in qualche modo inquina non solo dal punto di vista proprio del lasciare rifiuti, ma anche del cambiare le culture, le tradizioni dei luoghi in cui si va. Ecco, in realtà il turismo può anche essere un momento invece molto positivo, non solo perché è la prima industria al mondo, per cui può avere un ritorno economico molto forte per queste popolazioni, spesso popolazioni del terzo mondo, che hanno bisogno di trovare nuove fonti di reddito, e quindi nuove fonti di reddito chiaramente soltanto se loro preservano il loro ambiente, preservano la loro cultura, perché è questo che noi andiamo cercando. Allora, nel momento in cui il turismo non diventa distruttivo, ma diventa un momento di difesa di una cultura, vengono anche preservate delle tradizioni che altrimenti probabilmente andrebbero perse, perché comunque certi modelli culturali nostri, che passano attraverso non tanto e solo il turista, ma passano attraverso la facilità di comunicazione, non fosse altro anche gli emigrati che vengono da noi e poi ritornano, quindi ci sono moltissimi, la famosa globalizzazione di cui tanto si parla, ecco, tutti questi cambiamenti inevitabilmente hanno luogo e non possiamo pensare, e non sarebbe neanche giusto per il nostro piacere pensare di che non debbano avvenire. Tutti hanno diritto ad avere quello degli standard di vita che desiderano, per cui ecco, però nel momento in cui loro capiscono, loro stessi rivalutano certe loro tradizioni o l'ambiente stesso in cui vivono, a quel punto chiaramente queste verranno preservate per noi, ma anche soprattutto sì, per loro. Infatti è un po' egoista andare in paesi che magari si stanno trasformando e con fatica raggiungono anche degli standard di vita che per noi sono dati per scontati, e rammaricarsi, come io ho sentito i miei partecipanti di viaggio fare, che magari al posto di una fogna a cielo aperto c'è una strada con le tubature, per cui non c'è più la puzza degli escrementi, ma invece questo è una cosa positiva. In quale paese, per esempio, quale realtà? Beh, il primo che mi viene a mente è la Thailandia, ma questa stessa cosa si potrebbe dire per molti dei paesi, ovviamente in via di sviluppo, che stanno in via anche di trasformazione, a volte molto rapida, per cui magari uno ha sentito un racconto di viaggio di 10 anni fa dove appunto c'era la catapecchia di fango che al primo acquazzone si disfaceva, e adesso c'è una casa di mattoni che magari sarà meno romantica o meno fotogenica, però quelli che ci abitano, stanno meglio. Ecco, allora rammaricarsi, come si sente a volte fare, di questo è un po', come diceva Anna, un po' egoista, un po' miope, nel senso che non si può né pensare né tantomeno auspicare che per le nostre fotografie o questi popoli rinuncino a degli standard. Per il nostro piacere dell'esotico. Sì, appunto, non ha senso. Anzi, io invece ne faccio un punto anche un po' provocatorio, se vogliamo, con i miei compagni di viaggio, quando si va in Laos e si vedono le antenne paraboliche. Faccio un esempio che mi viene in mente, un viaggio che ho effettivamente fatto su delle capanne. Io lo vedo, fotografo l'antenna parabolica, perché per me vedere la catapecchia che comunque ha l'antenna parabolica è un punto di soddisfazione, perché vuol dire che c'è una comunicazione, c'è una presa di coscienza di quello che è il mondo anche in gente che magari ha un livello di vita per altri versi molto più limitato. E comunque devo dire che se si esce, come noi cerchiamo di fare, dagli itinerari più standardizzati, proprio basta anche certe volte alzarsi al mattino prima, all'alba, e vedere la vita del villaggio quando si sveglia, piuttosto che stare nelle loro case, mangiare, farsi invitare a casa, entrare nelle loro case. Spesso si ritrova un'ospitalità che da noi si è completamente persa, perché c'è sempre un timore di fondo nel nostro rapportarci agli altri. Ecco, cosa che invece spesso in questi paesi assolutamente non si trova, si trova una spontaneità maggiore. Perché c'è molta curiosità, molti di questi, diciamo, questi paesi in senso lato, paesi in via di sviluppo, quindi che hanno meno opportunità di contatto col mondo esterno, c'è una curiosità di fondo, per cui quando hanno visto magari il programma televisivo, gli è capitato per le mani una rivista con fotografie e hanno l'occasione di conoscere qualcuno che viene da questi paesi, quindi dai paesi occidentali, per loro è una curiosità, ma anche un arricchimento, per cui ben volentieri ti invitano a casa, ti portano con la scuola, con i bambini, ti fanno conoscere la famiglia, e ovviamente è un arricchimento per noi, e questo è un po' il tipo di viaggio, anche quando dicevo all'inizio, cercare di immedesimarsi nei paesi che si visitano, come facciamo Anna, Dio e negli altri coordinatori di avventure, cioè andare in un paese ed entrare in una casa è un privilegio, è una ricchezza enorme, che se sei in un pacchetto organizzato non fai, ma sì, magari in 30 persone, insomma, perché ci vogliono anche dei numeri piccoli per poter fare questo. Ecco, io certe volte mi viene però la pelle d'oca quando penso quello che succede a loro quando vengono da noi e si aspetterebbero probabilmente un trattamento simile in qualche modo. Ecco, non è sempre così. Una domanda per entrambi i nostri ospiti di questa sera: vi considerate più viaggiatori o più avventurieri? Oppure, per essere viaggiatori come lo siete voi, è obbligatorio essere dei viaggiatori avventurieri allo stesso tempo? Guarda, l'avventura è una dimensione assolutamente personale, io credo, non esiste uno standard di avventura. Forse quando si parla di avventure è più un discorso sportivo oggi, perché il mondo è conosciuto, il mondo ormai Google, clicchi e ti vedi assolutamente tutto quasi al millimetro, per cui non c'è più nulla da un certo punto di vista da scoprire che non sia già stato fotografato, visto, raccontato. Però per te che ci vai la prima volta, per te individuo sicuramente invece è qualcosa di nuovo, quindi dipende, è soprattutto un'avventura interiore, io credo, quella che oggi noi dobbiamo riportarci da un viaggio. Un'avventura interiore, assolutamente sì, è un'avventura di contatto umano che va al di là della fotografia che viene fatta per strada al bambino che passa, è un'avventura che si sviluppa, io direi, prima ancora di partire, con un approfondimento, leggendo, informandosi sui paesi che si vanno a visitare e non trattandoli come se fossero Disneyland, dove uno va a giocare, a divertirsi. Per carità, chi vuole fare è libero di farlo, ma chi invece vuole appunto avventurarsi e cercare di capire, è bene che cominci anche da prima. Perché ci sono anche altre dimensioni del viaggio, c'è la vacanza di relax, di riposo, in cui uno ha bisogno di ricaricarsi, va benissimo, al massimo rispetto, però è una vacanza, non spacciamola per un viaggio di conoscenza. Come esiste l'exploit sportivo per di chi sale in cima alla montagna, piuttosto che fa in canoa la discesa del fiume, piuttosto che anche questo mi va benissimo, però di nuovo non è tanto un viaggio di conoscenza della realtà del posto, ma soprattutto di dimostrazione delle proprie capacità psicofisiche, di resistenza, eccetera. Ecco, soltanto quando invece anche e soprattutto magari a piedi, proprio perché permette, è quella dimensione del viaggio lento che permette di entrare davvero in un posto con dei ritmi che sono poi spesso quelli della gente del posto. In molti paesi ci si muove ancora a piedi, si va in Africa eccetera e si rimane colpiti di quanto le persone camminano per arrivare ai mercati. I mercati in Mali iniziano alle 11, non iniziano di prima mattina, perché la gente deve arrivare al mercato e ci sono queste lunghe file di donne, soprattutto con questi, con le ceste in testa, cariche di tutto per esatto. portare. Ecco, accompagnarle verso il mercato è bello quanto stare poi lì fermi con loro a guardarsi intorno. Anna, hai ricevuto commenti da parte dei tuoi lettori sul tuo libro? Che cosa ti ha colpito di quello che ti è stato scritto? Guarda, devo dire che sia le serate di presentazione che sto facendo un po' in tutta Italia, sia nella seconda pagina del libro c'è la mia mail, per cui le persone possono scrivermi direttamente. E devo dire che questo è quello che più mi conforta proprio, perché prima mi dicevate ti senti più scrittrice o viaggiatrice. Io credo nel mio piccolo di avere viaggiato. Non posso dire di essere una scrittrice, perché per essere scrittrice devono essere gli altri a dire che tu lo sei, non è che è un lavoro che ti puoi attribuire, sì, puoi dire che scrivi articoli eccetera, però lo scrittore nel vero senso della parola è una cosa importante, insomma soltanto se le persone apprezzano e in qualche modo tu riesci a esprimere magari quello che uno pensa e che magari non riesci a dire, ecco, allora a quel punto incomincio a pensare che hai fatto qualcosa, che hai detto qualcosa che ha un senso. Ho ricevuto parecchie email, oggi c'è questo strumento meraviglioso che io sinceramente credo, al di là di tutto quanto si parla male magari della globalizzazione, oggi abbiamo possibilità di comunicare eccezionali che nel passato chiaramente c'erano precluse. Ecco, sto ricevendo veramente molta posta elettronica di persone che mi dicono delle cose estremamente carine e che mi fanno venire voglia di continuare in questo mio viaggio di proposta del libro. Io direi che il viaggiatore è quello che non dice di essere viaggiatore, come appunto Anna ci sta dimostrando qua, no? Si fa tanto parlare di darsi anche un po' le arie di essere viaggiatori o invece che turisti, che è un termine quasi dispregiativo oggi. Beh, appunto, secondo me, come lei dice, uno scrittore è uno che non si chiama scrittore, che sono gli altri a dirlo. Si potrebbe dire lo stesso del viaggio. Un viaggiatore non si preoccupa di dover giustificare di essere un vero viaggiatore, un vero avventuriero, lo è, basta. C'è una battuta di Pontigia, uno scrittore italiano che adesso è mancato, che molto, molto vera, dice noi siamo i viaggiatori e gli altri sono i turisti, sostanzialmente ognuno pensa di essere lui il viaggiatore e tutto il resto del mondo è il turista, ecco. Ovviamente questa è la definizione forse più ironica del viaggiatore e del turista che ho sentito. L'altra definizione che spesso si dà è il turista, riprendendo da te nel deserto, il turista è quello che torna, che fa un tour, che ritorna, mentre il vero viaggiatore è quello che sì, forse ritorna ma non sa quando, sostanzialmente parte. Io non credo neanche questo, nel senso che noi dobbiamo misurarci con una realtà fatta anche di responsabilità, di obblighi verso terzi, famiglie, lavoro, per cui io sono anche contenta di tornare, ho un luogo che amo, ho delle radici ben profonde e il luogo fermarsi ogni tanto, è stata l'occasione anche per scrivere questo libro, un anno in cui mi sono fermata, ti dà la possibilità di metabolizzare tutte queste esperienze, questo mondo che tu vai scoprendo, perché altrimenti non costruisci nulla se continui solo a muoverti in superficie. Per cui fermarti ti permette anche ritornare, ti permette anche di avere un luogo dove fare tesoro di tutte queste esperienze. Hai appena detto che ti sei fermata un anno appunto per riflettere e per scrivere questo bel libro che stai presentando ora. Progetti per il futuro, magari su un viaggio magari da cui stai pensando da diverso tempo? Guarda, io sono una curiosa di mondo, devo dire, e ad esempio non sono ammalata, curiosa di mondo, mi piace un sacco. Ammalata da Africa, ho viaggiato un po' ovunque, spero non in maniera superficiale, ecco, cerco sempre, come diceva Marco, di preparare il viaggio, è anche un dovere, sostanzialmente una responsabilità verso i terzi che accompagno, per cui ho un sacco di desideri, te ne potrei fare un lungo elenco e spero, ecco, di poter continuare come ormai da tanti anni, insomma ho già visto molto mondo, ma è talmente grande e ancora talmente ricco di diversità che credo non riuscirò mai a annoiarmi. Anna, in chiusura, se i nostri radioascoltatori volessero acquistare il tuo libro, come possono farlo? Poi accennavi anche in precedenza che i diritti d'autore di questo libro sono devoluti ad un progetto... In Etiopia per bambine stuprate, per bambine vittime di abusi sessuali, che in questi paesi poveri sono poi veramente assolutamente trascurate, non difese, quindi gli ultimi degli ultimi, come un po' i disabili in Sud America, in Perù in questo caso, a cui vanno i diritti d'autore dell'altro libro. Quindi ho sposato due progetti perché credo che la scrittura acquista un significato soprattutto nel momento in cui, altrimenti è semplice scrittura, insomma deve essere anche un attimo un atto d'amore, come il viaggio tanto mi dà, alla fine qualcosa devo restituire a questi paesi e quindi ho fatto questa scelta e questo mi aiuta anche a portare agli altri in queste serate di presentazione dei libri, perché dà un senso maggiore a quello che sto facendo. Se voleste acquistare i libri basta andare nei siti delle due case editrici, Polaris per la guida e FBE per il libro, e entrambe le case editrici possono venderlo direttamente per corrispondenza, oppure i vari siti BS eccetera di vendita per corrispondenza. Non ultimo, ho iniziato un blog da un paio di settimane, quindi ancora in fase di perfezionamento e di crescita, che si chiama proprio come il libro, acomeavventura.com. E su questo blog è possibile acquistare direttamente il libro attraverso la casa editrice. Comunque ne abbiamo un po' di copie qui a Bruxelles questa settimana e quindi se qualcuno è impaziente può anche contattare me, se ne avanza qualcuna all'indirizzo email di prima, marcoavventure@skynet.be, qualche copia magari ci sarà disponibile già qui a Bruxelles. Va bene, grazie. Grazie mille per il vostro intervento. Grazie Anna, grazie Marco, grazie per essere intervenuti a questa puntata. Alla prossima. E in bocca al lupo per le prossime avventure. Grazie e buona strada anche a voi. Facciamo ora una... Sulle note di questa canzone ritorniamo in studio per la seconda parte di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma. Per la seconda parte di questa trasmissione abbiamo ospite in studio Paolo Gaio, attore. Paolo reciterà nel monologo 900 di Alessandro Baricco in scena domani sera e sabato. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, salve. Buonasera Paolo. Grazie, mi fa piacere che mi chiamate attore, in realtà io sono ingegnere. C'è la... Sono un attore dilettante. Quindi dilettante. Spero di essere perdonato per le mie eventuali incapacità di attore. C'è un po' di agitazione, un po' di stress, visto che questa sera siamo una sera prima dell'entrata in scena? O... No, o sei un attore ormai di lunga data? Sì, perché ho cominciato a recitare qui a Bruxelles ormai da una quindicina d'anni. Io ho un gruppo che si chiama Le Teste Matte, col quale facciamo due rappresentazioni all'anno. Questo però è un caso un po' particolare, sono da solo e come avete detto voi, infatti, è un monologo di Alessandro Baricco, abbastanza conosciuto, il titolo è 900. Chi è 900? 900 è un pianista. Un pianista che è nato su una nave, è stato trovato su una nave, su un piroscafo, tipo Titanic, è stato raccolto, abbandonato sulla nave raccolto, ed ha vissuto per tutta la vita sulla nave. Lì ha imparato a suonare il jazz, e è diventato il più grande pianista jazz del mondo, anche se in realtà nessuno l'aveva mai sentito al di fuori della nave. Siamo agli inizi del Novecento, ho menzionato il Titanic, siamo agli inizi del Novecento e quindi siamo agli albori del jazz. Io fra l'altro non ero, prima di trovare, di scoprire il Novecento, un grande cultore del jazz, di jazz, però lo sono diventato anche perché ho cercato le musiche che poi accompagnano lo spettacolo. Dunque andrà in scena domani sera? Il 16 e 17, quindi domani, venerdì e sabato, al Teatro dell'Istituto di Cultura. Comincio alle 8:30 e il ricavato va come solito per beneficenza. Io, grazie a Dio, ho la mia società che mi paga, quindi non ho bisogno di essere, non è per profitto personale. Dunque, per tutti quelli che vorrebbero venire a vederti, diamo l'appuntamento, che è appunto al Teatro dell'Istituto Italiano di Cultura, dunque Rue de Livourne 38 a Bruxelles, a partire dalle 20:30, oppure possono anche inviare una mail all'indirizzo email pinanfili@scarlet.be. Esattamente, forse è il caso che parli un attimo di Baricco per chi non lo conosce. Baricco è torinese, è un po' tutto, perché è critico musicale, giornalista, attore, regista, scrittore. È cominciato come giornalista, scriveva sulla Stampa e faceva degli articoli di una pagina o due, che poi ha raccolto in un libro che si chiama Barnum, che consiglia di leggere, articoli di sport, di musica, di tutto, ma a cui dava ovviamente un taglio letterario. Ha scritto Seta, Castelli di rabbia, Oceano mare, e credo che il Novecento sia l'unico pezzo teatrale che abbia scritto, è un monologo. Il monologo in realtà è abbastanza lungo, però l'ho ridotto per poter renderlo più appetibile a chi lo volesse, venirlo a vedere. Quanto durerà? Durerà un'ora e un quarto, più o meno, un quarto. Vi posso garantire che un'ora e un quarto è abbastanza divertente, non lo dico io, lo dice chi ha letto Baricco. Una mia curiosità personale: perché questo monologo? Perché questo monologo l'ho scoperto, io conoscevo già Baricco, l'ho scoperto una quindicina d'anni fa e mi è rimasto dentro. E prima l'ho letto e poi ho detto: ma prima o poi bisogna assolutamente che lo reciti, bisogna che lo reciti. Pietro Pizzuti lo fece in francese 5-6 anni fa, Pietro è mio amico, e mi ha dato un po' il coraggio di affrontare questo lavoro, che è abbastanza importante, abbastanza impegnativo. Un'ora e un quarto in scena, cercando di non annoiare le persone, non è poi così facile. Dunque invitiamo tutti i nostri cari radioascoltatori a venire a vederti il 16 e il 17 e per scoprire anche il jazz, magari. E scoprire anche il jazz, sì, c'è un sottofondo di jazz. Possiamo mettere, vi do l'inizio del monologo. Dunque, all'inizio del monologo si apre la scena, c'è un rumore di sciacquio, sciacquio di mari, di oceano, e poi comincia il jazz, comincia il brano jazz. Io entro in scena con una valigia. In realtà il monologo nel monologo è un amico di Novecento, un suonatore di tromba, che racconta le sue esperienze, come ha conosciuto Novecento e quello che come l'ha trovato. Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire, ci stavamo in più di 1000 su quella nave, fare con in viaggio, i migranti, gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno solo che per primo la vedeva, magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente sul ponte, magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni, alzava un attimo la testa, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, il cuore gli partiva a 1000 sempre, tutte le maledette volte, giuro sempre, si girava verso noi, verso la nave, verso tutti e gridava: «L'America!» Poi rimaneva lì immobile, come se avesse dovuto entrare in una fotografia con la faccia di uno che l'ha fatta lui, l'America. La sera, dopo il lavoro, le domeniche, si era fatto aiutare dal cognato, muratore, brava persona. Prima aveva in mente qualcosa di compensato, ma poi gli aveva preso un po' la mano e aveva fatto l'America. Ecco, questo è l'inizio del monologo. Come vedete, è serio e è faceto allo stesso tempo. C'è ironia, c'è un po' di tutto nel brano. Che e io penso che siamo di fronte a un vero attore, altro che io ho la pelle d'oca veramente nel modo in cui hai potuto recitare così in diretta, cioè, ai microfoni nostri, davvero. Vi posso fare un secondo pezzo? Ma certo. Allora c'è il momento in cui il marinaio lo trova per primo sulla nave, appunto era stato lasciato sulla nave. A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Woodman. Lo trovo un mattino che erano già tutti scesi a Boston. Lo trovò in una scatola di cartone, avrà avuto 10 giorni, non di più, ma neanche piangeva. Se ne stava silenzioso con gli occhi aperti in quello scatolone. Me l'avevo lasciato nella sala da ballo di prima classe sul pianoforte. Non aveva però l'aria di essere un neonato di prima classe. Quelle cose di solito le facevano gli immigranti. Partorire di nascosto da qualche parte sul ponte e poi lasciare lì i bambini. Mica per cattiveria, no. Era miseria quella, miseria nera. Un po' come la storia dei vestiti. Salivano che ci avevano le pezze nel culo, ognuno col suo vestito consumato dappertutto, l'unico che ci avevano. Poi però, dato che l'America è sempre l'America, li vedevi scendere alla fine, tutti ben vestiti, con la cravatta anche gli uomini, e i bambini con certe camiciole bianche. Insomma, ci sapevano fare. In quei 20 giorni cucivano, tagliavano e alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo, niente. Si erano fatti il vestito buono per l'America, a tutta la famiglia. Mica potevi dirgli niente. Ecco, questo è il Novecento è stato raccolto da questo marinaio e c'è la vita sulla nave di questo Novecento, un duello con un altro pianista che si ritiene il più grande pianista di jazz, un duello a base di pezzi di bravura, ovviamente. Non diciamo come finisce, però rispetto a poi tutta la storia, spero fino in fondo, oppure hai a un certo punto deciso di interrompere? No, prima direi che lascio la curiosità a chi viene a vedere per sapere come va a finire, perché è molto interessante. D'accordo, dunque rinnoviamo ancora una volta l'invito per i nostri radioascoltatori il 16 e il 17 all'Istituto Italiano di Cultura a partire dalle 20:30. Novecento, la leggenda del pianista sull'oceano. Posso chiedere a Paolo quando ti è nata la passione per le scene? Allora, e perché anche? Risale molto tempo fa. Io ero ancora un bambino, credo avevo avuto 9-10 anni, mio padre mi portò a vedere L'uomo dal fiore in bocca di Pirandello, ne rimasi affascinato. A 12 anni già sapevo a memoria il testo dell'uomo dal fiore in bocca, e ovviamente perché non ho mai recitato, però il teatro mi è sempre rimasto dentro. E quindi è arrivato sui 40 anni, quando ormai nella vita hai fatto quasi tutto, hai fatto carriera se potevi farla, hai fatto una famiglia se potevi farla, ho detto vabbè, a questo punto posso dedicare al mio sogno. E come mai hai intrapreso poi tutta un'altra carriera, tutto un altro percorso di studi, di formazione? Per fortuna, perché non credo che avrei potuto sopravvivere. Effettivamente adesso sono in una condizione ideale, perché da una parte posso permettermi di recitare senza avere problemi finanziari, ahimè è molto difficile diventare perlomeno sopravvivere recitando, quindi posso, è il mio hobby, è l'hobby a cui mi dedico con grandissima passione. I progetti futuri, prossimo futuro qui a Bruxelles? Prossimo futuro qui a Bruxelles, come dicevo, con il gruppo Le Teste Mate facciamo 2 rappresentazioni all'anno. Abbiamo fatto la Cena dei Cretini a novembre, che voi magari avete visto in televisione, al cinema, però in realtà è un pezzo teatrale. E adesso a maggio, 4, 5, 6 maggio, spero che mi rinviterete per raccontarvi lo spettacolo. 4, 5, 6 maggio facciamo 13 a tavola, altro classico. Facciamo cose normalmente divertenti. La gente, non solo a Bruxelles, ma in giro per il mondo, vuole divertirsi quando viene a teatro e noi cerchiamo di soddisfarli. E noi ve lo faremo sapere con anticipo, ovviamente. Cari radioascoltatori, quindi appuntamento per domani sera e sabato sera con 900, ovvero La leggenda del pianista sull'oceano, un monologo di Alessandro Baricco recitato da Paolo Gaio. Grazie Paolo per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, alla prossima volta. Grazie a te e alla prossima volta. Cari radioascoltatori, siamo in chiusura. Buona serata a tutti. Buona serata, un grazie al nostro direttore Roberto Giava in regia. Bravissima come sempre. A risentirci alla settimana prossima. Buona serata.